GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci, domenica dello sport nel segno dei motori. In Formula 1 nel Gran Premio di Germania trionfa Lewis Hamilton, che domina malgrado l'intervento della safety car dopo l'incidente, per fortuna senza conseguenze per il tedesco Glock. Seconda la Renault di Nelsinho Piquet, male le Ferrari. Terzo Massa, che ha subito un sorpasso capolavoro proprio da Hamilton, solo sesto Raikkonen. Sentiamo il brasiliano. Una gara difficile, una gara dove era difficile lottare, era difficile avere un grip, una stabilità buona. Guardando Lewis sembrava che aveva qualcosa di diverso e quindi questo fa vedere che noi avevamo qualche problema. Non riuscivamo a guidare al limite e lottare per la vittoria. In classifica mondiale guida ora Hamilton con 58 punti, poi Massa 54 e Raikkonen a 51. In MotoGP a Laguna Seca, nel Gran Premio degli Stati Uniti, Stoner e Valentino Rossi regalano emozioni e spettacolo a colpi di sorpassi. Decisivo poi a 8 giri dalla fine l'errore dell'australiano, che ha dato il via libera alla vittoria di Rossi, ora leader mondiale con 25 punti di vantaggio proprio su Stoner. Sentiamo Rossi a Italia 1. Bella, bella, una gara da mettere fra le prime perché per l'intensità, per la grande battaglia, per il grande passo che ho avuto in gara e finalmente si sono visti un po' di sorpassi e mi sono proprio divertito. È stata una gran battaglia e questa vittoria è importante anche perché è la prima Laguna. Nel mondiale Superbike, doppietta della Ducati di Troy Bayliss nelle due manche del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Un terzo e un quarto posto per Max Biaggi. Per il calcio parte oggi la stagione della Roma, che si raduna a Trigoria. Primo gol di Ronaldinho con la maglia del Milan in allenamento a Milanello. Ma il primo successo pesante è del Napoli, che nell'andata del terzo turno di Intertoto ha battuto in trasferta in Grecia il Panionios per 1-0. Decisiva la rete di Bogliassino alla mezz'ora. La pagina del ciclismo: ho fatto lo stesso di Riccardo. Sarebbe stata questa, secondo il quotidiano spagnolo El País, la frase pronunciata da Leonardo Piepoli giovedì mattina sul pullman della sua ex squadra, la Saunier Duval. Piepoli, poi licenziato dalla squadra, avrebbe pronunciato la frase dopo che si era diffusa la notizia della positività all'epo del suo capitano Riccardo Ricco, poi escluso dal Tour. Intanto il Tour de France è arrivato in Italia. Ieri a Prato Nevoso 100.000 tifosi e la vittoria dell'australiano Gerran. Prima del gran finale un giorno di riposo in Italia sulle nostre strade nella provincia Granda a Cuneo. Giorno di riposo graditissimo da Frank Schleck, il più grande dei fratelli che hanno fatto grande il piccolo Lussemburgo. Pochi secondi di vantaggio su 4 diretti avversari, ma secondi preziosi per poter respirare e godersi una giornata da grande nella Granda. Piccola l'Italia del pedale, piccola perché Vincenzo Nibali è giovane ed è alla sua prima esperienza, ma sta dimostrando di apprendere i segreti della corsa. Piccola l'Italia di Damiano Cunego, che in questo tour sta solo rimediando giornate amare, cariche di sconforto e minuti raccolti lungo la strada. Il tour è qui in Italia, molto vicino a noi, ma per i nostri è già maledettamente lontano. Ferragosto Style, Giro 24, Il Sole 24 Ore, Cuneo. E in vista delle Olimpiadi, successo del campione olimpico e bicampione mondiale Bettini al trofeo Matteotti a Pescara. E sempre per le Olimpiadi saranno Croazia, Grecia, Germania le ultime tre squadre a partecipare al torneo di basket a Pechino 2008. Le tre europee hanno conquistato il pass nel torneo di Atene. Chiudiamo col rugby. L'Italia si candiderà per ospitare i mondiali del 2015 o del 2019. A renderlo noto è stata la Federazione Italiana Rugby. Le edizioni 2015 e 2019 della Coppa del Mondo verranno assegnate fra un anno, nel luglio 2009. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.